A pane e burro del rock and roll sono le 7 e 31 minuti primi. E allora, è la ricorrenza del musical Hair. Potevamo farcela scappare così? No. Let the sunshine. Ho quasi preso anche la tonalità. A Roda, Genova, a Daniel da Viareggio. Sì, ho detto che sembravo Michael J. Fox, eh? Ciao Michael, prestami la DeLorean così forse arrivo puntuale. Stessa yuppie sensazione. Enrico da Livorno, ti siamo vicini. Allora, la nipotina che canta la nostra sigla, c'è o non c'è? Yeah. Non lo correggo con niente il caffè, ragazzi. Sono così di natura, è il rock and roll. Siamo vicini all'autista cinico. È rock avere un omino pazzo che ogni mattina ti osserva durante la prima corsa e parla da solo? Sì, stagli vicino. Rispondigli, rispondigli a caso. Invece, guarda, saluto con calore Angelo da Ravenna, che a proposito dell'omino ha appena incrociato due che fanno jogging. Mi chiede se voglio che, vuole che li porti qui. No, no. Però sai cosa dovreste fare? Voi che vedete questi esseri umani correre, dovreste tirare giù il finestrino e incitarli. Secondo me, bisognerebbe farlo. Forza ragazzi, correte anche per noi. Forza ragazzi, forza! Dai, venite a correre in via Vittor Pisani. Runner 67 mi scrive: quando corro scelgo posti un po' più belli. Farò a meno del tuo incitamento col megafono. Beh, Runner 67, non sai cosa ti perdi. Guarda che correre in via Vittor Pisani è un, cioè, figo. È una corsa metropolitana, vedi la stazione centrale. Poi corri con lo smog, quello più vero, che ti allarga i polmoni. Secondo me sbaglia non venire qui a correre. Oh, Pagherei pur di evitare questa rubrica radiofonica, ma so. Non dica così. Non puoi così. So quanto ci tiene lei e quindi la mantengo. La cultura a pane, burro e rock and roll. Le parole ribelli. Ma DJ Ariele, quante volte abbiamo detto che il rock è cultura? Ah, guardi, veramente fin troppe. Abbiamo una parola al giorno, non vedo l'ora veramente di scoprire la parola di quest'oggi. Tenetevi forte. Sì, perché si mette i tappi nelle orecchie? Perché ho paura, ho veramente paura di questa rubrica. Perché si copre gli occhi? Guardi, la parola ribelle, l'idioma sì? ribelle di oggi è marpione. Ah, finalmente, qualcosa di tranquillo. Bene, ci dica. Bene, subito dopo Mazza e Marchetta. Ne parliamo un altro giorno, vada. Marpione, regionalismo adottato a livello nazionale. Sì? Significa persona esperta, scaltra e navigata, sì, con risorse che lo salvano dalle situazioni più compromettenti. Esatto. Da marpio, ah, sì? gancio di salvataggio dei rimorchiatori, e da marra, grossa zappa per lavorare e dissodare terreni in superficie. Quindi mi piace questa immagine del gancio di salvataggio per rimorchiatori, per quale uno si salva in corner. Ma essendo un marpione. Esattamente, da marra, grossa zappa per dissodare i terreni. Sì, ha capito, sì, cosa si fa con la marra? Ammazzati, dissoda, diventa... esatto. Ma sa che mi sono ricreduto? Mi piace molto questa rubrica delle parole ribelli. Avrei tanto voluto saperlo e adesso lo so. Grazie. Prego. Che c'è? Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Love. di questa Just Like Starting Over che salta, quindi quando sento questa versione tutta dritta mi sembra strana perché nella mia mente è rimasta col saltino. Cose che accadono a noi rocker. Benvenuti a Pane, Burro e Rock and Roll, puntata 33 o puntata 111. Che inquietudine, tra l'altro nel giorno 17, ai. Vabbè, abbiamo un servizio completo per il vostro risveglio, abbiamo un film che ci tiene compagnia in queste due ore, il film è scelto lunedì, e non ci resta che piangere. Segnalate pure se avete proposte per i prossimi film, noi sguinzaglieremo la nostra redazione in ricerca di interventi. Per fortuna abbiamo già fatto le parole ribelli, così sto tranquillo, mi metto il cuore in pace, rischio il licenziamento tutte le volte. Abbiamo un collegamento telefonico, mi dicono in regia. Ah, no, ma io volevo la nipotina che canta la canzone, quella non l'abbiamo ancora trovata. E allora chi abbiamo? Francesco, il nostro piccolo radioascoltatore di riferimento. Così intanto salutiamo i piccolini nel classico tragitto casa scuola. Va bene, voi restate con noi, ne sentirete delle belle, ragazzi. Questa è la missione che si chiama Davide contro Golia. La nicchia vincerà. Restate con noi e diventeremo ricchi noi, forse. Grateful Dead, scusate, ho dormito poco. Sugar Magnolia, buses twirling, heads all empty and I don't care. So my baby down by the river. Knew she had to come up soon for air. Sweet blossom, come on under the willow. We can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature, rolling in the rushes down by the riverside. She's got everything delightful. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speed. Well, she comes skimming through rays of violet. She can wait in a drop of dew. She don't come and I don't follow. Waits backstage while I sing to you. But she can dance a Cajun rhythm, jump like a widow's in four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall, and winter. She can make happy any man alive. Sugar Magnolia, ringing that bluebird, caught up in sunlight. Going out singing, I'll walk in the sunshine. Come on, honey, come along with me. She's got everything delightful. She's got everything I need. A breeze in the pines in the summer night. Moonlight crazy in the sunlight. Yes, indeed. Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I take me out and I wander around. Blooming like a red rose, even more freely. Qualche giorno fa grossa preoccupazione ha creato una telefonata di un nostro piccolo radioascoltatore, orgoglio, grande orgoglio per noi di Rock FM sapere che tanti piccoli bambini, grazie ai loro genitori che hanno un gran buon gusto musicale, ascoltano Rock FM. Tra l'altro, telefonata in diretta e autentica. Dovremmo essere in contatto vero con il pubblico, a trovare autentico. Nuovamente un contatto con il piccolo Francesco, bentornato sulle frequenze. Eccolo qui. Ciao. Ciao Francesco. Buongiorno. Guarda che sì, ci hai fatto preoccupare l'altro giorno, eh? Tutto bene? Io ascolto il metal. No, sì, ho capito, puoi ascoltare il metal. Benvenuto a Rock FM, mi raccomando, eh? Ma sei stato a scuola l'altro giorno quando hai dato? No, a scuola non ci voglio andare, no. Ma perché io non ci vado. Io sto in macchina con mamma sempre. E cosa vuoi fare nella tua vita in macchina con mamma? Ascoltare per pure la carota. Sì, è un'ottima idea. Cosa vuoi fare da grande? E da grande cosa vuoi fare, Francesco? Io da grande voglio fare una band air metal, anche se non so che vuol dire. Voglio fare i Motley Crue. Bravo, mi sembra un'ottima informato. Senti, informato. Ci puoi passare mamma, che così parliamo un po', facciamo due chiacchiere anche con lei. Mamma dorme. Mamma dorme, in macchina. Fermi questa volta, spero. Sì, stavolta sì, però in mezzo al traffico. No, senti, perché mamma sta dormendo? Goccette. No, come... Altre goccette. In che senso goccette? Altre goccette. Cosa hai dato alla mamma? Confessa, Francesco. Aspetta che mo ci leggo, imparavo da poco, aspetta, eh. Sì, sì. Rohypnol. Ma quante gliene hai date, Francesco? Mamma mia. 50. No, no, Francesco. Io non so contare. Ascolta, devi smetterla di fare queste cose. Permettimi di dirtelo. Se vuoi continuare ad ascoltare Rock FM, smettila di fare questa cosa alla mamma, per favore. Ma la fanno sentire. Io sto in macchina con mamma. Sì, ma se le dai, Francesco, se tu le dai le pilloline, le fai male. La mamma dorme troppo. Ma se io non gli do le goccette. Sì. Voi mettete i Megadeth. Sì, Francesco, promettiamo. Assolutamente, promettiamo. Però adesso smetto, eh? Va bene, promesso. Però mi raccomando, noi ti mettiamo i Megadeth, la devi aspetta la polizia. Come? Mi ha rapito, aiuto. Ti è caduta? Cosa ha detto? Mi hanno rapito. La polizia. I piccoli radioascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll. Già rocker alla loro età. I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino. Ci vuole lo stiro. Ci vuole un dolcino. Ci vuole lo stiro. Dice che è stata una disattenzione della maestra. E solo uno si è buttato giù dalla finestra. Dalla finestra. Oddio che cosa si può inventare. Oddio che cosa possiamo dire. Quando sua madre arriverà. Ehi, si incazzerà. No, non andate in collina. Qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione. Abbiamo già bruciato tutti i libri. Bruciamo anche lui. Yeah, bruciamo anche lui. I bambini nell'asilo non fanno più casino. Sono rimasti molto pochi. Dove i fuochi. Yeah. Mr. Vasco Rossi con Asilo Republic, 7:52 minuti primi. Oh yeah. Chiedo scusa per Francesco. A volte ci scappano di mano certe telefonate. Vi ricordo il 335-100-7777, il reclutamento degli ascoltatori, delle ascoltatrici. Ogni giorno ne scopriamo una nuova ieri, la meravigliosa radioascoltatrice Fiorentina, che ci ascolta pompandoci a manetta dalla sua borsa per diffondere pane, burro e rock and roll. Un amico genovese mi segnala che si è attaccato al camion a entrambi i lati un cartello con su scritto Listen to Rock FM 87.6. Ho fatto bene? Sì. Un saluto a Simone che non è ancora andato a letto e dice: fortunato te Ariele che hai dormito poco. Hai ragione. Vise Klaus, sei un cantante nato Ariele. Gruppo d'ascolto Dalla Tazza. Stai diventando uno dei miei gruppi d'ascolto preferiti, te lo dico subito. No, no, niente jogging oggi, niente Vittor Pisani, non mi alzo dalla tazza. Tra l'altro oggi ho aggiunto anche Dostoevskij, che classe, da Milano. Ragazzi, abbiamo... hai capito, con Dostoevskij. Roberto Da Lucca, che solidarizza con Francesco. Viva Francesco il metallo, scrive un altro. Ragazzi, siete veramente tantissimi, ogni giorno di più, sono orgoglioso di voi, non vedo l'ora che arrivino i dati Audiradio, così metto il cuore in pace, che è meglio se mi trovo un altro lavoro. Oppure arriva il picco pane, burro, rock and roll. Ah, che sogno, sto sognando a occhi aperti. Va bene, ci vorrebbe anche il 666 tra tutti questi numeri, commenta Mattia. Zio Pampurio, allora... Ah no, però mi ha detto 8 e un quarto, scusa, ho detto una stupidata. Allora, oggi da scaletta dovremmo occuparci della rubrica dei calendari contro i calendari soft porno. Abbiamo Andrea il patentato 147 che ieri ascolta, che settimana scorsa ha monitorato M2O e che quest'oggi dovrebbe iniziare a renderci conto di un'altra radio, perché stiamo studiando la concorrenza per vincere su tutti. Poi abbiamo il test attitudinale, ovvio. Il Topo Rogna, ah ragazzi, ve lo dico subito, il Topo Rogna da quest'oggi ha un amico, si chiama Topo Frigo, sono entrambi cavi da esperimento. Non ci credete? Beh, restate lì, tra pochissimi minuti li sentite in diretta, sono i nostri opinionisti di pane, burro e rock and roll. Oh, abbiamo due cavi da esperimento come opinionisti, perché non si può? Sembrava un'ottima idea. Sempre a favore della gioventù, perché siamo giovani ribelli. Youth Gone Wild is Skid Row. Yeah. oggi? Ciao Frigo, non so più cosa fare, sto impazzendo. Sai quella topolina della gabbia 27? Mi fa girare la testa, ho il cuore che batte a mille, come si dice in tumulto. Sudo freddo, non mangio più. Quando gli altri topi, le altre cavie mi parlano, io non rispondo, ho la testa fra le nuvole. E mi sa che sono proprio innamorato, ma non dirà nessuno. No, Rogna, mi sa di no, guarda, guarda che è solo il Malox che stanno sperimentando su di te. Ah, il Malox, dici? Però che sballo, mi piace.